Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS. Buongiorno a tutti e ben ritrovati da SoInfo, l'appuntamento settimanale dedicato ai temi della salute della società, osservati attraverso uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Continuiamo ad approfondire il tema della salute delle bambine e dei bambini e, dopo la presentazione della pediatria dell'ospedale di Treviso offerta ieri dal dottor Paolo Grotto, oggi andiamo a conoscere, attraverso le parole del coordinatore, dottor Mirko Ross, l'organizzazione e funzionamento di uno dei servizi specifici offerti dall'unità operativa, il Centro Fibrosi Cistica. L'unità operativa fibrosi cistica dell'ospedale Capuncello di Treviso è attiva dal 2004. È il secondo centro fibrosi cistica della regione Veneto e sono seguiti presso questo centro circa 170 pazienti, sia dell'età pediatrica sia dell'età adulta. L'attività che viene svolta presso questo centro è soprattutto di tipo ambulatoriale e segue sia pazienti pediatrici che adulti della provincia di Treviso, Belluno, Padova, Venezia e anche qualcuno della provincia di Pordenone. Vengono seguiti con attività ambulatoriale e con ricoveri soprattutto per la parte pediatrica. L'altro centro che segue questi pazienti è il centro fibrosicistica di Verona. E presso questo centro operano 9 operatori, sono 2 medici, 3 infermieri, 2 fisioterapisti, e una psicologa, una segretaria. E 4 di questo personale viene sostenuto da progetti pagati dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica, con la quale si collabora strettamente per il funzionamento del centro. E, la malattia, che è la fibrosi cistica, è una malattia genetica, una malattia con cui si nasce e che necessita di cure tutta la vita. Ad oggi è una malattia curabile, ma non è guaribile. È una malattia tra le malattie rare la più frequente e, per quel che riguarda la sua incidenza, è un neonato su 2500 su 3000. In Veneto ci sono circa 400 pazienti con questa patologia. È una malattia che viene diagnosticata alla nascita praticamente. Tutti i bambini nati in Veneto hanno lo screening neonatale, per cui a circa 20 giorni di vita sappiamo se quel bambino è affetto o meno da fibrosi cistica e questo permette di intervenire precocemente sulla malattia. La fibrosi cistica è una malattia genetica, quindi è una malattia con cui si nasce e che accompagna il paziente tutta la vita. Colpisce circa un neonato su 2500 e in Veneto ci sono 400 persone che hanno la fibrosi cistica. È una malattia che può essere diagnosticata precocemente, in quanto nella regione Veneto è previsto uno screening neonatale, per cui a 20 giorni di vita i genitori sanno se il bambino è affetto da questa patologia. È una malattia di tipo autosomico recessivo, per cui i genitori sono dei portatori sani e una persona su 20-25 è portatore sano di fibrosi cistica. È possibile anche con un esame del sangue sapere se una persona è portatore di fibrosi cistica, per cui si possono fare questi test anche prima di avere un bambino e si può fare anche una diagnosi prenatale di questa patologia. È una malattia che ad oggi è curabile ma non è guaribile. Colpisce sostanzialmente 3 apparati, apparato respiratorio, l'apparato gastrointestinale e l'apparato riproduttivo. Dà dei sintomi importanti che sono, dal punto di vista respiratorio, delle infezioni ricorrenti che necessitano di trattamenti antibiotici, aerosolici, di fisioterapia respiratoria in maniera molto costante. Dal punto di vista gastrointestinale provocano una maldigestione, una malnutrizione e la maggior parte poi di questi maschi, dei maschi affetti, sono sterili. La terapia è una terapia che deve essere fatta in maniera costante, tutti i giorni, e occupa anche più ore al giorno di questi pazienti. La prognosi è molto migliorata negli ultimi 20 anni, grazie al fatto di questa diagnosi prenatale precoce, il fatto che tutti i ragazzi sono seguiti presso centri specializzati, le nuove farmaci che sono stati scoperti e la possibilità di fare anche il trapianto polmonare. Tutto il miglioramento di questi fattori ha portato a una prognosi molto migliore e ha prolungato molto la sopravvivenza, oltre che la qualità di vita di questi pazienti. Soinfo, salute e società. Punto radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda USL. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.